I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Non c'è solo lo scandalo dietro lo scandalo che sta travolgendo la FIFA. E non è un gioco di parole. Chiaramente ci guardiamo bene dall'immaginare a che cosa condurrà l'indagine appena avviata, come hanno confermato gli stessi investigatori statunitensi, dalla FBI, e che per ora ha visto indagati 9 alti dirigenti della FIFA e getta pesantissime ombre sul suo ormai storico presidente Blatter. E non spetta certo a noi, toccherà agli inquirenti dimostrare se veramente i mondiali di calcio dagli anni 90 in poi hanno generato tangenti per 100 milioni di dollari, ma è innegabile che dietro le indagini e dietro le accuse di corruzione ai dirigenti del governo del calcio si stia muovendo qualcos'altro e solo un ingenuo potrebbe non vederlo. Si sta infatti ridisegnando la geografia stessa del pallone. Non è un mistero che Stati Uniti e soprattutto Cina siano state molto insoddisfatte del modo in cui i mondiali sono andati a Russia e Qatar. In particolare la Cina vuole pesare di più e avere un peso simile a quello che ha nel resto dell'economia mondiale. Questo ovviamente non vuol dire che i mandanti dell'inchiesta della FBI siano Cina, Stati Uniti e altri paesi che si sentono esclusi dalla grande torta che ruota attorno al business del calcio. Ma le economie emergenti e in gran parte già emerse stanno bussando alla porta anche del business del pallone. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Putin in campo che difende Blatter. Dietro lo scontro sull'inchiesta internazionale lanciata dall'FBI e delle autorità americane sulla corruzione nel calcio internazionale, si stanno innescando cose completamente diverse da quelle sportive. È ovvio che dietro lo scontro non c'è soltanto un'operazione mani pulite o fischietti puliti, c'è sicuramente qualcosa di più. C'è la pressione che gli Stati Uniti stanno aumentando enormemente sulla Russia. Non è un caso se più che del Qatar, che è rimasto coinvolto insieme alla Russia sull'ipotesi di tangenti per ottenere i mondiali di calcio, il Qatar sia uscito dai radar e sia rimasta soltanto la Russia. Non c'è soltanto lo scontro sull'Ucraina, c'è qualche cosa di più. C'è il tentativo degli Stati Uniti di isolare, anche finanziariamente, il Cremlino e Putin dal contesto internazionale. I mondiali sono occasione di business sicuramente, ma anche di pubblicità per un paese. Ed è proprio ciò che non vogliono gli americani, che chiusa la porta del grande commercio internazionale contro la Russia, proprio dalla finestra rientra il mondo civilizzato e soprattutto lo sport. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.